Ah. Periferia Nord. Cristian Battista. Sì. Dicono e sai, ma non saci. Non saci, no, fra. Il amore c'hai, ma non faccio. Non faccio, no, fra. Napoli è come virus, si ci grido, gente che spero, sparo, mentre la vita si fa sempre giù caramara. Napoli, la città di miracolo, sentiamo buono, supero ogni ostacolo. Grazie a D, mi trovo in coppa una buona visualizzazione. Mi trovo con frate, ma tema, pascia una stazione. A culura sta nazione, ci sono di Mahindo, ma quando ci riscono, vai via, via da Napoli, rimango sulla mia e così sia. Pure se non tengono posto, se aspetta che arrivo l'Italia, se una gara acciappa uno straniero. Vuoi fare un affare in famiglia, ti trovi in discombiglia, difficile che ti arrabbiglia. E prima che ci rimanano male, suo padre, mamma e figlio. Che se trovano in dana gabbia, se trasformi in rabbia. È chiaro, che mi trovo a fatica vicino a stupanare. Sa di scina e scina ma a quello, custodiare l'uno, fanculo. Rimango con una capa piuttosto un muro. Le storie sono sempre 900. Siamo tutti buono, qualcuno siamo innocente. Presente, che vita è una solo, e mi scarpo con solo l'amore. La vita mi chiede, Wilton te chiedo. O meglio per te come un re, un capo una corona, come un leone una criniera. Mentre ci vende la sta bandiera, Napoli, come posso far meno? Lo butto l'onoro 60.000. Arriva paghi paghetto, domanda quanto pino chilo. Tu fatti un giro, miro, ma vira bianca, ma in te son nero. E che te arriva cagare, com'era così sono rimasta. Che mana rindo un basto, pasticcio va arriva a fine mese. Fecondo e fa spese che ho peso, indelebile come una presa. E senza offeso, a periferie nord e Napoli, sapa gamba, bra. Dicono e sai, ma non saci. Non saci, no, fra. Il amore c'hai, ma non faci. Non faci, no, fra. Non faci, quanta faci lasciassi. Dicete stime lo pigliassi. Intanto contrabbanda fantasma, perché saluto non è giusto. Guasta un po' di frutto, ma finta passa. Per una carriera sicura, oscura notte devasta. Allucano creature, sbattono l'astro. Come a colpa roba, una botta. Chi passa zomba, chi mangia e fotte. Alleggio più forte, non s'arresta. Chi parte, chi resta. I resi si invece suona. Rogano da sti pazzire, se vogliono sentire, ma basta. Potessi chiudersi cose in da valigia, ma non saci. Ancora un sol lucido, in tanta capessa stiva, se le pensano cai. Dicono e sai, ma non saci. No, no, non saci. Il amore c'hai, ma non faci. No, no, non faci. Dicono e sai, ma non saci. Non saci, no, fra. Amore, acciaio.